24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il vertice dell'Eurogruppo riunitosi in Lussemburgo. Sul tavolo i nuovi problemi relativi ai conti pubblici greci che hanno allarmato le piazze finanziarie ieri negative. Oggi vi parleremo anche delle nuove proposte sui fondi strutturali che Bruxelles si appresta a presentare e vi racconteremo come ci sia pure un europeo tra i vincitori del premio Nobel per la medicina. Infine l'ultima assurda contesa tra Francia e Gran Bretagna. Parigi vuole sottrarre a Londra il meridiano zero. I ministri delle finanze europei si sono riuniti in Lussemburgo poche ore dopo l'annuncio che la Grecia mancherà gli obiettivi di bilancio concordati solo 3 mesi fa. Arrivando nel Granducato, il ministro ellenico Evangelos Venizelos ha affermato che nel 2012 l'avanzo primario sarà di 3,2 miliardi di euro, quest'anno il deficit primario sarà di 2,3 miliardi in calo dai 24 miliardi del 2009. Venizelos ha ribadito che la Grecia ha deciso tutte le misure necessarie, per quanto difficili, per rispettare gli obblighi assunti nei confronti dei partner istituzionali. E che Atene difficilmente rispetterà i target fiscali, lo ha ammesso il commissario degli affari economici Olli Rehn. La discussione tra i ministri finanziari, in attesa del rapporto della Troica, Europa, BCE e FMI, sulle condizioni per lo sblocco della nuova tranche di aiuti, si sta così concentrando sul fondo salva stati. La Finlandia, paese molto critico verso Atene, si è detta contraria all'aumento della potenza a disposizione del fondo, posizione diametralmente opposta a quella spagnola, mentre il ministro tedesco delle finanze, Wolfgang Schäuble, chiosa qualunque discorso sull'aumento la capacità del fondo è prematuro. Il Financial Stability Board non ha discusso l'IFSF o le recenti decisioni dell'Unione Europea in questo ambito, così il governatore di Banca Italia, nonché presidente dell'FSB, Mario Draghi, durante una conferenza stampa a Zurigo. E quella di ieri è stata una seduta negativa per le borse europee, che hanno pagato il nuovo peggioramento dei conti pubblici ellenici. Parigi ha ceduto l'1,8%, Francoforte il 2,2%, mentre a Milano il FTSE MIB ha ceduto l'1,31% e lo share meno 1,34%. Sentiamo. Seduta negativa per le borse europee che pagano il nuovo peggioramento dei conti pubblici greci. A nulla valgono così i dati USA migliori delle attese, con Parigi che ieri ha ceduto l'1,8%, Francoforte il 2,2%, mentre a Milano il FTSE MIB ha lasciato sul terreno l'1,31% e lo share l'1,34%. A Piazza Affari controcorrente Fonsai più 9% con tutta la galassia Ligresti. Grazie al balzo di ieri il titolo della compagnia assicurativa più 50% da metà settembre è tornato sopra quota 1,5 euro. Il prezzo del maxi aumento di capitale effettuato in estate sostenuto da Unicredit. Positiva anche Ansaldo più 2,6% in attesa della possibile cessione da parte della controllante Finmeccanica. In coda al listino invece Saipem meno 6% e Popolare di Milano meno 6%, quest'ultima colpita da realizzi dopo il corposo rally delle ultime sedute. Giù anche Fiat meno 3,2% con tutto il settore auto europeo nel giorno dell'annuncio dell'uscita da Confindustria. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. Tra il 2007 e il 2010 le richieste di credito presentate da piccole e medie imprese italiane e non andate a buon fine sono quintuplicate, passando dall'1,2 al 4,9% del totale. Parallelamente le domande accolte sono scese dall'86,6% al 78,4%. I dati sono stati diffusi ieri da Eurostat e confermano gli effetti restrittivi che la crisi e le difficoltà del sistema bancario stanno avendo sul flusso del credito verso le imprese, soprattutto le PMI. L'Unione Europea è pronta a cambiare le regole per i fondi strutturali, niente aiuto a chi sfora i parametri del patto di stabilità. Sentiamo. Fondi strutturali solo per i paesi più virtuosi, con la chiusura automatica dei rubinetti per quelli che violano le regole del patto di stabilità su deficit e debito. È questo il piatto forte del dibattito della Commissione UE che si terrà dopodomani, mercoledì 5 ottobre. L'esito della discussione porterà alla proposta dell'esecutivo europeo sulla nuova politica di coesione per il 2014-2020. La misura allo studio non è l'unica che approderà sul tavolo delle trattative. Tra le ipotesi figura anche un premio all'efficienza. Chi meglio utilizza le risorse europee più riesce ad ottenere. Prevista anche una corsia preferenziale di destinazione dei fondi per i progetti di innovazione, ricerca ed efficienza energetica delle PMI. Sembra inoltre esserci un consenso sull'introduzione di una fascia intermedia di regioni tra quelle meno avanzate e quelle più ricche. Per l'Italia rientrerebbero Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Si pensa anche ad estendere al settore agricolo i fondi a sostegno di chi perde il lavoro in seguito alla delocalizzazione. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo russo segue con molta attenzione l'indagine europea sulle attività del colosso nazionale del gas Gazprom nel vecchio continente. La scorsa settimana gli uffici di Gazprom in vari paesi continentali erano stati perquisiti. Il governo seguirà con molta attenzione tutto ciò che accade. Vi chiedo di riferirmene tempestivamente. Così ha detto il premier Vladimir Putin in un incontro con il numero uno di Gazprom, Alexei Miller. È indispensabile investire 270 miliardi di euro nello sviluppo delle reti a banda larga entro il 2020 perché un aumento della sua penetrazione del 10% nell'Unione Europea fornirebbe un contributo alla crescita annua del PIL tra lo 0,9% e l'1,5%. Questa è l'indicazione del commissario responsabile per l'agenda digitale Neelie Kroes nel suo intervento al Digital Agenda Summit di Bruxelles. Sospeso dal partito per 3 mesi a fine luglio e forse da fine ottobre anche dal gruppo al Parlamento europeo, Mario Borghezio rischia di pagare care le sue dichiarazioni sulla strage di Oslo, in cui aveva indicato come profondamente sane e condivisibili le idee di Breivik. E così al cartellino giallo della Lega potrebbe presto sommarsi il rosso dell'IDF, l'Europa delle Nazioni e la democrazia, casa del Carroccio a Strasburgo. L'Ungheria intende riesaminare il suo sostegno alla candidatura della Serbia all'Unione Europea dopo l'adozione da parte di Belgrado di una legge sulla restituzione dei beni confiscati dal regime comunista che, secondo Budapest, è discriminatoria nei confronti della comunità magiara della Vojvodina. Premio Nobel per la medicina ai 3 esploratori del sistema immunitario, tra loro c'è anche un europeo, sentiamo. L'americano Bruce Beutler, 54 anni, il lussemburghese Jules Hoffmann, 70, e il canadese Ralph Steinman, 68 anni. A loro l'Accademia di Svezia ha assegnato il premio Nobel per la medicina che ogni anno va agli scienziati che ci aiutano a vivere di più e meglio. I 3 ricercatori sono pionieri dell'immunologia, solo che mentre i primi 2 hanno potuto festeggiare il più prestigioso dei riconoscimenti accademici, il terzo, Steinman, non ha fatto in tempo nemmeno a sapere di averlo vinto il Nobel. La sua morte, annuncia infatti la Rockefeller University, risale al 30 settembre per via di un cancro al pancreas, malattia alla quale Steinman era riuscito a resistere per 4 anni grazie ad una terapia che egli stesso aveva messo a punto, basata proprio sugli studi che gli hanno valso il Nobel. Per l'Accademia il premio va a 3 scienziati che hanno dato un contributo essenziale allo sviluppo dell'immunologia, aiutando a combattere meglio malattie che colpiscono milioni di persone, come l'artrite reumatoide. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un buco nell'ozono anche al Polo Nord. Per la prima volta nel 2011 la riduzione dello strato di ozono è stata ben superiore a quella media stagionale, tanto che uno studio comparso sulla rivista Science parla apertamente di un buco sia pur molto inferiore a quello dell'Antartide. Ma perché è accaduto? Laura Bettini lo ha chiesto a Vito Vitale, ricercatore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima al CNR. Questo è paradossalmente una conseguenza ancora del riscaldamento globale e cambiamento climatico, sicuramente, perché a un riscaldamento della troposfera, potrà sembrare paradossale, ma abbiamo una diminuzione della temperatura della stratosfera, quindi dobbiamo aspettarci per un po' di tempo che questi processi possano accadere, possono ripetersi magari in Artico altre volte. Questo potrebbe essere un periodo di instabilità che per un po' potrebbe capitare. Il buco artico, almeno quello che si è manifestato quest'anno, ha una caratteristica diversa rispetto a quello antartico. È stato meno persistente, è durato un periodo più breve, diciamo, però per quel breve periodo sicuramente la radiazione nelle regioni ultravioletta alla superficie, nelle regioni artiche, è aumentata. Parliamo di un 30-40%, però per un periodo abbastanza limitato. Quello che intravediamo è che un minimo di influenza ci possa essere stata anche a latitudini più basse. Polemica tra Inghilterra e Francia. A Parigi vogliono scandire il tempo al posto del quartiere della Grande Londra. Sentiamo. L'Ufficio Internazionale di Pesi e Misure di Parigi, quello che ospita l'orologio atomico dalla precisione assoluta, chiede di diventare il riferimento temporale ufficiale al posto del sobborgo londinese di Greenwich. Gli inglesi hanno immediatamente rigettato la richiesta, sbeffeggiandola sui giornali, dove si è parlato della solita, ennesima trovata degli eurocrati continentali che non perderebbero occasione per minacciare le tradizioni d'oltremanica. Gli scienziati di Parigi, per parte loro, hanno risposto ai britannici che le loro obiezioni si basano sul retaggio culturale e non sulla scienza. Il sistema francese, preciso al millesimo di secondo, sarebbe più adeguato di quello inglese, basato invece sulla lunghezza del giorno dipendente dalla rotazione della Terra sul suo asse. Francesco Maesano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.